buon viaggio, buon rientro, buon tutto, alla prossima, bacio e saluto. Ciao ciao, faccio il tuo collega, no? Ah boh, non lo so, garraggia. Obi-Bumba. Ehi. Punti. Buonasera Claudio, come hai sentito? Beh, anche ora. Com'è? Tutto a posto? Ehi, sempre va a prendere. Ho fatto il buco, adesso ho fatto passare il cavo sotto la finestra, no? Perché prima passava, diciamo, nella battuta, si stava rovinando un po'. Ah, il buco nel coso? Ehi, già va bene. Va bene, va con l'antenna. Se la metti sopra, sono cacchi. Non è cambiato niente, tutto a posto, sì. Oh, adesso ho collegato l'antenna direttamente all'apparato, proprio l'ago non si muove dalle stazionarie, è quello che c'ho nello Smith. Non so se sia affidabile, però è vero. No, no, però vabbè, c'è 9-10 pieno. Quando attacchi c'è 9, oltre 9 più 20. Adesso proprio ho staccato tutto, cioè il PL direttamente dall'antenna all'apparato. Avevo un pezzo di RG8, quindi adesso è tutto uguale, diciamo, tutta la colonna fino all'antenna è tutto RG8, dai. È che non mi ricordo la misura dell'ispettore, perché li stavo misurando, questi che ho qua sono circa 75 V, ma io mi ricordavo multipli di 44, 45, non è che sono sbagliate le ispezioni, ed è per quello che con i lineari mi salgono un po' le stazionarie. Se il lineare ce l'hai vicino, mettili più corti possibile le ispezioni, capito? Più corto possibile, io quello lo vado all'amplificatore a radio più vicino era da 45. Da 45, capito fra? Io con 45 ci rientro, perché questi sono, non sono né 90 né 45, quindi sono roba vecchia, forse la roba di Anna, non lo so, ispettore di RG8. Vorrei portarli a 45. Da dove la prendi però la misura? Dalla fine del PL o diciamo dalla punta o dalla battuta del PL? Lo prepari e prima di metterci il PL lo misuri, intanto poi la punta è dentro, quindi sempre quella è la misura. Quindi da punta a punta oppure dal PL, dalla parte grossa, parto con la misura? No, io da punta a punta lo faccio sempre. Io pensavo invece addirittura dalla parte più grossa. Stavo cercando qualcosa su internet ma non c'è niente nello specifico. Boh, è una vita, li faccio sempre così, no? Non è che mi hanno dato mai noia, spezzoni eccetera, capito? E basta farlo così, poi la della fotti. Metterò più corto possibile. No, sono stato il PL e li faccio a 45, come dici tu. Perché secondo me è per quello, perché adesso l'antenna è direttamente collegata all'apparato, proprio non si muove, l'antenna è perfetta. Mi sposto di 80 sopra, 80 sotto, i spiccioli, si muove pochissimo. No, ma già si vede che bella lineata, che è perfetta, no? Hai picchi di modulazione buoni, non hai nessun rumore, nessun innesco, capito? Va bene, fra. Fa farlo vedere. Adesso hai migliorato anche tu con questo cavo, lo sai? Adesso tu sei proprio sul più del 30. Sei normale come sempre? Sì, sì, sempre. 10, 15 watt, dai. Sempre, no, non lo tiro mai il 4,40, il 4,30 è un po' di più. Ma il 4,40 mi avete non tirarlo, capito? Quindi lo tengo sempre posizione da baracchino, dai. No, no, perfetto, qui arrivi che è una meraviglia, va. E figura di tutto, sì, 9 e 10 con picchi positivi, quindi va bene, quindi da botti non finito, sempre cercando a mangiare. Fra. Qui qua qua, ma ne beh, Cuocuomane sarai tu e gli amici tu, hai capito, bella bene? E beh, Natalì, piazzata la roba. Che cosa? A pescare. Non ho fatto nulla, che sono malato, Influenzato, sì. E allora? Ma vedete quando guarisce, io credo bene questa cosa. Ehi, ma c'è questo anch'io, sono tutto quasi intasato, ho preso una attacca pirigna, aveva di pranzo. C'è anche Anna che non sta bene, lo stesso, mi è intasato. Ma mi tocca un vinicchio da casa. Dimmi come è andata poi stamattina, Carlo? Ciao, qua. Ehi, come è andata? Se volevo andava benissimo, ma non ho accettato. Mi hanno proposto una collaborazione esterna con un contratto a chiamata, quello devo fare avete un raccolto, ho detto sì, mi c'è il bilancio 7:30, vai. Al massimo lo posso fare in nero, così almeno non pago tasse. Ma non è possibile con loro, capito? Purtroppo c'è. Sono troppi controlli a livello regionale, a livello non si può. No, non ho accettato niente, no. Amici come prima, l'ho detto, sono a disposizione per qualsiasi consulenza telefonica, non ci sono problemi, però per il resto preferisco rimanere come sono. Ma state capisano, come più di che conoscevo, state capisano, riprende Natale che io ho iniziato a tagliare qualche cartone, va. Fai, già siamo qua, fai. Che mi stavo soffiando il naso, Mamma mia, tutto smacconante, sì. Ascolta, e tu gli stazioni, come li calcoli le misure? 30, 60, 90. Wow. Questa è ancora diversa, sì. Anche qui si possono fare, c'è chi li fa 30, 60, 90, 120, capite? Io li faccio 35, 45, 65, 75, dipende. Le misure queste, ma come stanno? I vecchi dicevano sempre un numero dispari, io ho sempre continuato così, da punta a punta. Quello che ho io, ripeto, che va quella sezione HF, però è non baracchino, io non c'ho niente di letto, antenna, no? Stazionarie, non so cosa vogliono dire, 27. Mentre invece l'altro, la sezione HF, lo spezzone è quello lungo che va praticamente dall'amplificatore alla HF, l'altro è 45. Allora, questo è 77, proprio una misura anomala. Natalia, tu la misura dove la prendi? Dalla punta del PL, dalla punta sottile o dalla parte più robusta? Aspetta, si sta soffiando il naso di nuovo. Prendilo da punta a punta, io li prendo così, i problemi non me ne ha mai dato, da punta a punta, intanto non entra dentro l'attacco, come era quell'attacco là, la frettatura, quindi io li prendo così, poi non lo so. Ecco, è per fare il lavoro unico e boom, la regola data, come si suol dire. Però la 77, se la misura ci sta, farò la 45. Posso provare prima la 60, come dice lui, e vedo un po'. E poi, se non vanno bene, li porto a 45. Provo anche la 60. Come ha fatto questo spezzone? Facendo, sto. Adesso li ho tutti, tutti e due, con le torri li sto rifacendo le saldature. Fai. Sto dando una controllatina col test. Sì, fai. Salino, ancora sguoconando sta. Il naso sta soffiando. Non dico. Ehi, c'è il naso come Bergotti lui. Bergotti? Che c'è il naso come Bergotti, capito? Ho capito. Un naso grande, Ciami, e quindi ci vuole tempo, va. Non sarà più grande del mio? Già ve ne vedete tutti e due. Chi è questo canarino? Chi è? Un bel frate. E allora, mettemi in conto, già. Da Martina, a casa di Martina. Non sei venuto. Prendo un caffè. Sono andato un grano troppo io, costava 50 euro la chiave con telecomando, più la chiave. Dovevi andare via Mendola, su, alla casa della chiave. C'era una lì, se tra i feriti. Ah, fatto io con la 147, stesso problema, ci ho dato all'Alfa, lui te la codifica, mica ti può dare la chiave, tu la devi comprare e poi ti fa la codifica, capite? Però, se vuoi risparmiare, Franco, devi fare come ho fatto io, senza telecomando, apertura sportello. Puoi fare tra amici, ma metti la fotografia dei carabinieri. l'articolo sotto, metti il nome di qualche amico tuo, e lo metti su Facebook. È una cazzata. Hai gare in bocca a te? No. Secondo me sono cose da non fare, capito? Perché Facebook lo vedono tutti. Ma come io non mi gioco io, anzi mi gioco ma non entro. Angelio, quando accendo il computer sai le notifiche che ricevo di Facebook. Oh, manco ne guardo, cancello bu. Non mi interessa. Vabbè, sì, fra, ho capito, però quella gente che ti ho mai capito, no? Per farti capire nella BDV, di quello prende di tutto e di più, da chiunque, anche dagli zingari, capito? Quello si chiama riciclaggio, un peso è, perché vengo io con tanti documenti, te li do, tu me lo pesi, me lo paghi, io me ne vado. Ma cazzo, prende la roba dagli zingari, gli zingari sono ladri, sono ladri. Sentito, e vabbè, però ancora che uno sa da dove vedi, il bacio ma chi? Ci sia proprio qualche cucchiera, 450 euro, ma lascia perdere, e quando hanno, ci accedi tu dentro, io lì, quando hanno demolito le cosciarde, veniva poco materiale, gente in tradescente, facevano lo giro della fanculo da portineria mare, poi facevano tutto lo giro da Buntini, da Quasci, com'è che non li venivano con le macchine garriche? Perché lì c'è la via di fuga del varco che c'è a Portineria Mare, ma in Portineria Centrale bastava poca niente, quello che c'ero io era un bel controllato, faceva scendere, dovete aprire la macchina, ho fatto a me un paio di volte, io uscivo spesso a pranzo con la macchina della Gran Progetti con la Panda, e un paio di volte mi ha detto non ti offendi se scendi, cosa mi offendi? Controlla, apri. Controllato cofano, sotto i sedi, tutto controllano, non niente, se sei disorganizzato hai diritto una lì. Dice dove a prendere materiale, no, a casa di mamma mangia polpetti e se lo rivendi giù per due. C'ero io fra, poi oggi era un movimento che vera in quell'anno, eh? Un movimento di articolati, già lo so, ma quando ho demolito la costruzione di Sarve lì, erano le macchine, i camioncini che uscivano carichi, plafoniere, ma lascia per lì plafoniere, gruppi elettrogeni, di tutto ci sono buttato anch'io. Sono venuto con Michele, capito? Quando, perché poi c'avevi l'orario per portare le murchie all'imbarco, quindi quanto ne avevi da caricare? 4, 5, e dovevi caricarti, ritaronarli, fare memorando, fare tutto e portarlo all'imbarco, se no la nave imbatte e le murchie rimane a terra, quindi già mi ricordo che si camellava. Sono trovati alla Vichovarca, lì sottramenti. cosa gli è successo? Cosa gli è successo? Quello ci comprava 1200 euro di affettata la settimana. E se no Mignon fa i miei puliti ramazzotti di Gianbuca. Quando uscivo dalla mancia a Tagliarini, fammi farmi venire con mio collega, perché io andavo, uscivo con la porta di servizio. Ha detto a me, ma il caffè, no, io il caffè non ne voglio, voglio, io faccio manella, ti vogliamo due o tre bottigliettine. E andando andando ti vivo, fisci Maria Gara, quanto ne ho bevuto di quei mini, ragazzi. Io c'ho Gianbuca, Ramazzotti, mamma mia. Quando l'hai tratta c'era quello troppo, così? E allora? E se no forse non mi volevamo entrare. Mi ha preso tutto poi, tutto qua, se c'è fatto le cose, non può entrare. Allora una notizia, mi ha detto, già, te lo dico una notizia. Mettevo la retina alla marmitta, no? Sai che ci avevamo obbligatorio lì dentro, no? Negli scarichi delle macchine, delle cose, mettere il tappo con la retina. E ce l'avevo attaccato con la catenella, no? Con la macchina era così. Ma tu, ma mica intendi? Si è avvisato che ero senza tappo la marmitta, cazzo, mi ha frusciato, ho detto, ma lui ti devi fermare perché ti prende il numero di carica, poi l'azienda ti fa il culo a tona di grida. Allora mi sono fermato, ho fatto retromarcia, ho detto, oh, c'è visto la sbarra aperta, lo sai chi sono io, la voglio tu. E poi è fratello del barbiere, quello mi dico, ma ti chiamo Mariccio di era lì a Piazza Università, non so se è morto. E ho visto la sbarra aperta, sono entrato. No. Ma ti vemmi e ti voglio pure la generazione dell'azienda che si è entrato già a punire lo dappo antiscintille nella marmitta. Io gli ho detto, ma mamma ragazzi, a Parigi mi hai frusciato. Figurati tu, esci Maria Gara, quello era rompi balle, quello era sempre a fruscio in bocca, proprio un fischietto, ti frusciava e se non ti fermavi, guarda, infatti a me il responsabile di sicurezza mi aveva detto, guarda, ti raccomando, non ci crei problemi, usi la macchina per entrare per uscire, ma non ci crei problemi in portineria perché se arriva una segnalazione a piedi. Infatti ero sempre attento alla verità. Cazzo, dimmi, ci avevo dimenticato di punire lo dappo delle antiscintille o germavani, di cose, insomma, lo scarico. Cazzo, già mai mi fa di la segnalazione. Sì, ma era un rompimento di balle quell'uomo. Ma garantazia mi, perché sai, tutte le macchine posteggiate, poi i trappiedi, non quelle che entravano la mattina. Cazzo, si metteva davanti ai rulli dove passavamo il badge, per vedere se qualcuno passava il badge, non passava il badge e saltava, capito? Cazzo, gli tu, ma chi tu vuoi? Ah, vai fare la sbarra, girati le balle. Thank you. anche gli occhiali. Sì. Il muraggio dell'azienda è volia dalle abbecciolari. Ma male che l'avete smesso, ci ho copiato tutto, è esaurita la rete del capo Viscione, ma vivo è ancora. Viscione, tu mi combinava, amica, Viscio Maria, che tanto mi combinava, amica. Vabbè, io c'ero anche il giorno che è morto. Molto Jenny lì, è entrato sotto l'articolato. E Jenny lo chiamava, io Jenny la bionda. Vabbè, adesso che stavamo appena entrando noi, poi era un periodo, diciamo, sempre in sciopero, sempre in casini, vero? Capito, avevi due le lanciato questa macchina, il gatto si è sempre sotto articolato, fermo. Non conosci più, dimmi anche a parte che ha fatto lo scorso, avevo 18 anni che l'ha lasciato lavorare. Stiamo già molto da mancanti. ci sono tre mancanti, per carità, ma mancanti a vero. Macchine sempre truccate, per esempio abbiamo 112, 70 capi, diciamo lì. Ci dice la padrita che non ce l'ha. Poi siamo preso questa Giulia 1003, Giulia 1003D, figurati, perciò ti sto parlando proprio di quegli anni. Usata, era amaranto, metallo esatto. E l'ha provata proprio in Chivi, allora la 167 non c'era tutta campagna in Chivi, quindi si usciva il radio satellite, il petto rettilineo che tirava giù a Soprattamona, e non c'era tutti quei marciapiedi, quei muretti, ci sono piste ciclabili, era tutta una corsia. L'ha tirata dritto, ma dritto, proprio c'è entrato dentro la chiesa, dentro. Hanno tolto la macchina, mi ricordo, il vigile del fuoco, con la gru tirata fuori, agganciata e tirata fuori. Il muro davanti, la porta praticamente. Non c'era più tutto il muro, lui c'è entrato dentro con la macchina. Qui c'era la campetta da rossa, te lo ricordo? Sì, me lo ricordo sì. Lì c'era Stefano Spadone, tutti. Se ne va, facevano una quella salita con la discesa, io me lo ricordo. Vabbè, dei tempi ma brutti anche, brutti quel periodo fra, un po' di casini tutti gli anni. Facevo cagacino, lo so, dei tempi perché eri giovane, quindi insomma, si stava bene, però io avevo il Morini 350 in quel periodo, poi l'avevo versato da Pio, avevo preso il Kawasaki 400, era di anni sì, avevo Besci, mio fratello ce l'aveva rossa e mio cognato, mio germano ce l'aveva celeste. Io avevo il Morini 125, la competizione. No, no? C'era il Morini 350, il duro, uno dei primi era uscito, mi piaceva la moto, e poi l'avevo versato, avevo preso la giacchetta 400 da Pio, e vabbè, e la moto già, la stava bene allora, fra, si muoveva che cosa, allora, può andare più a lungo con queste strade che ci sono, che se beccare il dentro. Sono pagate, le ore sono pagate, se ti pagano da adesso. adesso fino a quando finisce la riunione. Ma qui pagano le ore che faccio di straordinario alla riunione. Solo una, vabbè, sono cose che sento solo nella tua azienda, perché non è previsto da nessuna parte una cosa del genere. Ti ho pagato le ore straordinarie, quella straordinaria stai facendo. Una riunione straordinaria per problemi aziendali è prevista dal contratto nazionale di lavoro, però è previsto anche l'ora stabilita per poterle fare, capito? O si fa prima di entrare al lavoro, o si fa nella pausa di lavoro, o si fa durante l'ora di lavoro. Anche la stacchi al, perlomeno il mio contratto è previsto così, anche la stacchi al 2-10, perfetto, da oggi c'è l'ordine di servizio, si esce a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 2-10 c'è la riunione interna, capito? E tu sei durante l'ora di lavoro, la riunione alle 2-10 ti mette e ne vai. Questo è straordinario, mi pare. Allora, la riunione a me mi pareva straordinario, magari, allora ti riunione a Giovanni. Ehi! Ehi, vabbè, ma non andando che forse è diverso, non c'è la possibilità di chiudere il negozio, si fa tutti i bambini dell'orario di lavoro, non interessa perché si appaga il cammino, la professione. No, ma questa qui è riunione sindacale, non è aziendale. Ah, riunione sindacale anche per programma straordinario, no, no. C'è una cosa che ha fatto l'azienda, ha convocato l'azienda, vabbè, se poi una cosa convocata dal sindacato straordinario non ve ne è. No, è fatta questa volta, non penso. La scorsa volta, quando l'ha convocata l'azienda, ci devono ancora pagare straordinario. Ok. Se la convoca l'azienda, una cosa aziendale, mi dice ok, trattenetevi, vi do le ore straordinarie perché c'è da fare questa riunione. Può anche star bene, anche ti ripeto, se non è previsto dal contratto nazionale di lavoro, assolutamente. Però l'azienda decide lì e quindi ti dirà, ma se il sindacato convoca una riunione straordinaria per problemi aziendali, sono problemi vostri. A te andarci o non andarci, capito? Dopo arriva il lavoro, perché non è che ti paga, che ti paga la, lo straordinario così da accanto. Infatti io te non ho l'altra volta ha messo in chiaro il fatto che non pagate le ore. Sì, accetto, anche se l'azienda decide così, è lei che decide, è lei che ti paga, quindi va bene, ma nel caso contrario non ce n'è straordinario, perché non è previsto. Capito? Ci sono le ore di permesso, i roll, dove tu andrai a recupero, io sono venuto alla riunione l'altro giorno, 2 ore, ecco, queste 2 ore me le metti come roll a recupero. No, non mi servono, me li prendo, perlomeno. Questo è quello che io seguivo, tra l'altro, anche, capito? Però sempre su disposizione aziendale, non mai su disposizione del sindacato, sempre su disposizione aziendale. Quando l'azienda mi diceva domani o dopodomani, mi avvisava 2-3 giorni prima, anche, capito? Si esce a mezzogiorno perché c'è una convocazione in ufficio, a sorso, una riunione, dobbiamo parlare di... Io sapevo già anche di cosa si doveva parlare, capito? Allora io avvisavo, mica è domani, dopodomani, tal giorno, si esce a mezzogiorno, quindi date una mossa, a mezzogiorno staccate e ci vediamo tutti a sorso. Però straordinario non ce n'è. Si staccava prima e si usciva in orario, capito? Qualche volta è stata fatta dopo l'orario di lavoro, ma non senza straordinari, recupero ore, a turno recupero ore, capito già? E vabbè, ognuno ha il suo metodo, va? No, al suo contratto, che io l'ho contratto il commercio di fuoco, non lo so se sia metà meccanico, cosa sia, adesso cosa ti ripresi. Io vabbè, comunque, capitavo in cena, beh, poi cosa hai deciso? No, io, il mio non è metalmeccanico, il contratto, il mio ecologia e ambiente regionale, il contratto regionale, o perlomeno era contratto regionale, no già, sì, ma lo sapevo già, proposta buonissima, soldi senza nessun problema, contratto a chiamata, collaborazione esterna, ma devo fare la cosa, come si chiama, l'avete avuto racconto, no? consulenza telefonica, qualche consiglio eccetera, non ho problemi, ma fare lavoro così no, anche perché poi a fine anno a 7:30 mi ammazzo. Vabbè, ohia, c'è sempre il caso di no. Ecco, ma così continuano pure, la tanto disponibilità, continuano a partire a fare, fanno lavoro, perché se no se capita una volta di tanto, perché abbiamo una telefonata alla collega, ma come si fa questo qui? E non mi sono sentito adesso, cazzo, ha fatto l'ultima, con un po' non mi riesco a stare a me, perché cosa hanno fatto? Hanno ricercato a lei per prendere una che prendeva praticamente prendeva la disoccupazione, no? Per una sorta è meno, si ricopriva di più perché non li pagava i contributi, capito? Hanno ricercato a lei e hanno preso questa qua. Però questa cosa si fa fare un cazzo, te la trova sempre a casa, vedere come si faceva quello, dove trovava a trovare quella cosa, dove prendere quel registro. Io non ero si incavolata, stava da me, me ne sta cosa, non mi è sostituito, io l'ho fatto la sala, non chiamare in futuro, andava a tutte. Sì, beh, quando poi diventa assistente la cosa allora non fa più. No, beh, io c'erano anche i miei colleghi, ci siamo salutati, ci siamo andati a prendere un caffè assieme, ho detto se avete necessità di qualcosa che posso essere utile, chiamatemi, ma niente, niente di che, capito? Assolutamente non mi sono messo a disposizione l'azienda, solo a qualche collega, gli ho detto, soprattutto a quello che sta cercando. Se ce la fa, sta cercando di inserirsi al mio posto, ma ancora è un po' in salita, mi ha detto, perché tante cose non le aveva mai fatte. Infatti a lui gli ho detto, se hai necessità di qualcosa, chiamami, te lo spiego io telefonicamente. Se magari sei a Sassari, ci vediamo, te lo faccio vedere come si fa. Ma all'azienda proprio, ho chiuso, basta, finito, boh, caput. Cosa fai? Una festa? Fai una festa quando vai in pensione? Beh già, quando vado in pensione. Se appena mi arriva la liquidazione la faccio. Penso il prossimo mese, prima di Natale, una cosa del genere. I miei colleghi l'hanno fatta. C'è stata Maria Vittoriana che l'ha fatta controllo la fatteria. Quella di Piazza dei Venti, non me lo ricordo, l'ha fatta lì, ha fatto una bella, lì era al microfono e praticamente e ci stava a cantare, a fare, facevo chiamate di gira. Facevi la Luciano di Faia, facevi? Sì, allora facevo ballare, facevo karaoke, un po' di tutto, fatto fare gli applausi a Vittoriana. Mi sono arrangiato, ha fatto una bella cosa, mi hanno dato il microfono in mano e io ho ganciato. Guarda, 4, no 3, con me 4, i 3 che sono andati via, uno l'ha fatta perché è di Ossi, uno l'ha fatta lì all'agriturismo che c'è a Ossi, molto bello quell'agriturismo. Gli altri hanno fatto a Montentoso, gli altri due. Io la farò a Montentoso lo stesso perché sono molto amico di Callisto, dei padroni di Mancali, e quindi la farò lì sicuramente. Capito? Ma saremo tra il mio gruppo di conduzione, manutenzione, i tre geometri e i tre referenti, i due dirigenti saremmo se non una trentina di persone, non di più, 30-35. Ah, non li metti tutti, ci sono anche tutti. E cosa devo fare già? Quella è la mia squadra, quella è la mia azienda, quello è il contatto giornaliero che avevo, capito? Praticamente devo invitare il mio distretto, che sono tutti quelli che io ho lavorato e non invito solo la mia squadra, il mio distretto, quello lavorativo, più i due dirigenti di Sassari con responsabili del distretto. Basta, saremo una trentina, penso, 25, 30, una cosa del genere. E Ciccio è Ridinami, sui, l'ultima volta che l'ha fatto, cosa, è andato in pensione, quello di Poaghe, l'ha fatto alle Montentugio, Michele, allora avevamo 22 e mi ha fatto 35 euro a testa, sono 3 per 2, 6, e mi sembra che abbia speso tra extra e tutto 1000 euro. Vabbè, non è andata male, dai, pensavo di più. E via, ma anche se ne spendo di più, ma non frega niente, non sarà quello il problema. Però lo devo fare perché è una cosa che hanno fatto tutti, a me mi hanno sempre invitato, eccetera, eccetera. Perché loro sono senza incarico, io purtroppo ho altri contatti superiori, qui devo invitare anche chi era sopra di me, normale, no? Quindi l'ufficio tecnico, tutte le cose. Figurati che ero produttore già l'altro giorno dall'officina turettana, devo anche invitare Antonello, responsabile, quindi a lui hai due geometri, a Davidino e a Davidone. Aspettate, 7:25, insomma, oggi una corsa con un prima, non ho riposato nulla, ho mangiato la sanguiglione, come si dice, ho fatto un po' di sanguiglione, ho mangiato così, aspetta, una fettina un po' di salata, una frutta via, con lo specchio taglio, non ho potuto manco tanto perché dovevo andare a fare la medicazione, poi mi ha trattato il piatto, ma a fare la commissione, tutto gatto, sono tornato, sono andato in farmacia, sono tornato a casa, adesso mi sono qua in braccio, ma tutto lo stress, adesso questo può scendere di più, non ha nessuna gara, adesso. E dentro c'è dei colleghi che stavano facendo il corso a HCP, finito il corso dalle 2 sino alle 6:30 mi pare, e poi devono aspettare per andare a quelle sono cose che bisogna fare già, nessun altro non ha giovato di corsi di aggiornamento, ha contato tutti i missioni, guai, per carità, vai vai già, se non si fa tardi, dai, anch'io rimango in ascolto 5 minuti, poi mi preparo e vado a portare il cane anch'io, dai. Se coincide ci sentiamo domani, eccetera eccetera, ok? Mi pare che questo l'altro ci ha fatto con l'antenna magnetica, la macchina, quella del portale, stavo pensando a quello. Poi mi sono fatto il risultato, ma non trovo mai tempo, credimi, non trovo il tempo. C'ho il posto per farla, scusate, vado in garage, non faccio. Però devo trovare il tempo, devo fare questo lavoro, ma non faccio da solo, non lo so, vediamo, come trovo un altro di tempo, perché sto lavorando la mattina, adesso mi dico, sai quando sono libero io? Libero, perché devo fare... praticamente faccio la visita e poi sono libero, tutta la mattina, tutta la sera, sono libero, e sai che me lo porterò più domani. Già, come vuoi, io te l'ho detto. Ho detto anche Luca è disponibile, basta che avvisi, capito? Che magari io sono in giro, ti faccio la commissione, bisogna che ti organizzi, mettiti la base magnetica per il momento, già arriva. È piccolina, vedi quelle telescopiche, capito quali sono? Quelle del coso, del mare, del Maxo. Io già ho capito qual è, lì c'è la tetto della Bellini. No, no, attaccavo per forte, non ti preoccupare, quella non la prima. Ma non ci vuole un cavolo perché c'è la plafoniera, basta fare con la plafoniera per passare in montagna il filo e arriva direttamente perché il cassettino c'è il buco per farlo passare dentro. Ah, ho capito, ho capito. E allora già si può fare. Non sarà quello il problema. L'importante non era belli, capito? È montato, ho fatto smontare la guarnizione, c'è anche il cavo per far passare il filo. Sì, sì, ce l'avevo anche io una di quelle piccoline così a base magnetica. Poi attacco BNC, capito? No, questo è un spinottino maschio. Spinotto maschio, il casco. E vabbè, va. C'è il riduttore. C'è il problema, c'è il riduttore. finire due chiacchiere, ci sentiamo dopo. Natalizia, sia l'ascolto, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Fra. Ehi, Fra, ci sentiamo dopo.